Tanto tempo fa, quando ero un ragazzotto, nelle vie del centro e nei parchi si potevano incontrare i carabinieri a cavallo. Erano davvero splendidi. Avanzavano lenti e solenni in alta uniforme con il tricorno settecentesco dall'alto pennacchio, la giacca nera filettata di rosso con gli alamari d'argento, l'ampio mantello nero rialzato da un lato sull'elsa della sciabola, i pantaloni neri con la banda rosso fiamma impeccabilmente infilati negli stivali da equitazione. Insomma, un vero spettacolo. Di carabinieri in alta uniforme se ne vedevano anche a piedi, perché due presidiavano in piazza del Duomo l'accesso alla galleria e un altro paio montava la guardia, se ben ricordo, sotto i portici della scala, ma quelli a cavallo facevano molta più impressione. E anche se operativamente parlando la loro presenza era affatto superflua, visto che quei bravi militi a piedi o a cavallo erano troppo impacciati dalla loro stessa bardatura per rappresentare una qualsiasi minaccia per gli eventuali malintenzionati, i cittadini li guardavano con simpatia e non protestavano per le inevitabili conseguenze che le modalità escretorie degli equini comportavano per la pubblica via. Le tradizioni sono sempre tradizioni e quelle pattuglie contribuivano con la loro ammisa a dare un tocco di eleganza ai luoghi in cui si esibivano. I carabinieri a cavallo se ne vedono ancora ogni tanto, almeno al parco Sempione e dintorni, ma l'alta uniforme non è più quella di allora. Portano al posto del tricorno il berretto con la visiera e hanno nel complesso un aspetto molto meno solenne di un tempo. In compenso, non sono i soli a caracollare sotto gli alberi. Da qualche anno, non saprei dirvi da quanti, ci sono a fargli puntuale concorrenza anche i poliziotti a cavallo. Sono molto meno eleganti, in berretto a visiera, giacca blu, mantellina carota da zucchero e pantalone in tinta con la banda viola, ma fanno comunque anche loro una certa figura. Tra l'altro, a significare, suppongo, una maggiore attenzione della Polizia di Stato verso il problema delle pari opportunità, si tratta spesso di coppie miste e bisogna ammettere che sciabola e stivaloni, per incongrui che sembrino, alle poliziotte stanno piuttosto bene. E certo, che cosa ci stiano a fare è davvero difficile da dire. Anche nel loro caso uniforme e mezzo di trasporto non sono esattamente quanto di più funzionale si possa adibire in servizio di ordine pubblico. E di tradizioni sette-ottocentesche da esibire a un corpo moderno come la polizia non ne ha. Ma suppongo che la loro presenza sia una conseguenza inevitabile di quel curioso parallelismo che caratterizza nel nostro paese l'organizzazione della pubblica sicurezza. Se i carabinieri mandano in giro delle pattuglie a cavallo, altrettanto deve poter fare la polizia, e per la stessa logica in base alla quale una serie di telefilm polizieschi incentrati su un maresciallo dell'arma ne deve seguire una in cui eroi ed eroine afferiscono la squadra mobile di una questura. L'altro giorno, mentre attraversavo il parco in bicicletta, riflettendo fra una pedalata e l'altra sul fatto che anche se il parco è sempre lo stesso e la bicicletta pure, l'interazione tra i due chissà come mai sembra ogni anno più faticosa, ho incontrato due vigili urbani a cavallo. Niente da paragonare quanto a uniforme con carabinieri e poliziotti, anzi, con rispetto parlando, avevano un'aria piuttosto squallida, senza sciabola, senza mantello, senza alamari, con dei semplici camiciotti azzurri a manica corta, che gli stessi che indossano in questa stagione i loro colleghi a piedi, e dei banalissimi pantaloni elasticizzati neri con banda verde, e sul capo, al posto del tradizionale ermetto dei Ghisa, un casco emisferico bianco che li faceva sembrare due motociclisti un po' fuori di testa che avessero scambiato il cavallo per la Kawasaki, ma percorrevano lo stesso i vialetti tutti impettiti, dandosi più aria di un manipolo di ulani di Pomerania, e mi hanno spinto a domandarmi con sincero stupore che cosa diavolo ci stessero a fare lì. Sul perché mai, con tutte le menate con cui il sindaco ci afflitti su come non ci siano abbastanza vigili a regolare il traffico, qualcuno abbia deciso di distogliere alcuni da questa funzione essenziale per equipaggiarli a nostre spese di stivaloni e quadrupede e mandarli a pavoneggiarsi tra il castello e l'arco della pace. Tradizioni da rispettare che io sappia non ce ne sono, e necessità di servizio che raccomandino l'uso della cavalleria meno ancora. Per pattugliare un parco come il Sempione, che peraltro è già pattugliatissimo visto che vi abbondano le auto delle polizia e che un tossico su tre ha tutta l'aria dell'agente o del carabiniere infiltrato, basta e avanza la bicicletta. Se l'esigenza di non essere da meno degli altri corpi concorrenti, beh, allora siamo rovinati. Finanzieri, polizia penitenziaria, guardie ecologiche e forestali vorranno quanto prima i loro reparti equestri, per non dire naturalmente dei corpi privati, cui in questa epoca di rifiuto del monopolio statale in tutti i campi non si possono certo imporre assurde antistoriche discriminazioni. E con l'aria che tira in regione non mi stupirei di veder passare sotto casa da un giorno all'altro la ronda delle camicie verdi a cavallo. Se invece il problema, come suppongo, è semplicemente d'immagine, beh, allora proprio non ci siamo. L'occhio vuole la sua parte, ragazzi, e questa variante di vigili urbani all'occhio non offre nulla di bello. La concorrenza è spietata e gli altri uniformi altrui non si possono contrapporre camiciotti a mezza manica, pantaloni elasticizzati e casco da motociclista. Non scherziamo. In un'epoca in cui tutto si gioca sull'apparire, ci vogliono almeno col bacco e mantello. E magari quelle giacche con gli alamari e quella specie di spazzoloni dorati sulle spalle che indossano gli alti dignitari nelle operette. È uno sciabolone, naturalmente. Un bello sciabolone non da impugnare, perché le lame sono pericolose e ci si può tagliare, e non sarebbe bello caricare l'arma bianca contro gli ambulanti abusivi, ma uno sciabolone da ostentare comunque con la debita disinvoltura. Delle belle pattuglie di cavalleggeri colorati darebbero un tono al paesaggio e offrirebbero alle famigliole in visita domenicale uno spettacolo più divertente di quello dei soliti pagliacci mangiafuoco e ingoiatori di spade. Di pagliacci e di ingoiatori, d'altronde, ce n'è abbondanza altrove.